2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, in onda il venerdì 22-23 e anche la domenica nella nostra breve versione domenicale delle 13.30. Ci trovate anche su Facebook, su Twitter e al nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Da un po' di tempo non parliamo di banda larga, qui il pubblico è diviso a metà, ci sono quelli che dicono basta, non se ne può più con questo tema della diffusione della banda larga, e ci sono invece quelli che dicono, che ci scrivono, continuate con la vostra battaglia, che poi non è una battaglia, noi sosteniamo semplicemente una tesi, io sostengo semplicemente una tesi che viene espressa da centri studi, organizzazioni internazionali, molti stati del mondo che investono in questa infrastruttura, la banda larga, per portare internet in tutti i piccoli paesi, in tutte le case, in tutte le aziende del paese. Perché? Perché c'è una relazione stretta, dimostrata, dimostrabile, tra la crescita non solo economica, la crescita sociale anche di un paese, di una nazione, e la diffusione di internet. Quindi questo è molto importante, ma diciamo, anche se fosse solo legato alla crescita economica, dal benessere di un paese poi nascono tante altre cose. Quindi è molto importante diffondere internet, oltre che l'infrastruttura, e su questo noi insistiamo molto, è importante anche diffondere la cultura tecnologica, la cultura digitale. Allora, da un po' di tempo non ne parliamo, anche perché siamo in attesa dei bandi di gara che mettono poi a disposizione le risorse che sono state messe a disposizione dal governo. Parliamo di una cifra piuttosto contenuta per il prossimo anno, cifre un po' più elevate negli anni successivi. Ci sono vari temi collegati a questo. Uno riguarda Enel. Enel dovrebbe a breve dire che cosa può fare, visto che Enel ha questo progetto di collegare in fibra ottica buona parte dei contatori, quella fibra ottica potrebbe essere messa a disposizione degli altri operatori. Sarebbe una cosa molto molto buona, un operatore di fatto terzo, indipendente, che mette a disposizione questa infrastruttura. Poi un'altra evoluzione potrebbe arrivare da una trattativa fra Telecom e Metroweb, che pare riprendere corpo. Ci potrebbe essere un accordo e il tutto dovrebbe essere discusso il prossimo venerdì 16 ottobre nel CDA di Telecom Italia. Se così dovesse, se così fosse, dovrebbe a questo punto sbriciolarsi, finire nel nulla la lettera di intenti con cui Wind e Vodafone avevano posto le basi per una collaborazione con Metroweb. Allora, vedremo se saranno confermate queste voci, come se prenderà corpo questa trattativa, però potrebbe anche non essere una buona notizia, perché il mercato, lo ripetiamo spesso, ha bisogno di soggetti indipendenti, come oggi è Metroweb. Metroweb mette a disposizione la propria infrastruttura a tutti gli operatori di telecomunicazioni. Metroweb non porta il servizio a casa degli utenti o nelle aziende, sono gli operatori che fanno questo. Di mezzo c'è sicuramente lo zampino del governo, che tramite Cassa Depositi e Prestiti, i cui vertici sono stati rinnovati in modo abbastanza, così, con un blitz potremmo dire. Allora, Cassa Depositi e Prestiti di fatto controlla Metroweb, e se così fosse, ci fosse un accordo con un operatore molto importante, molto forte sul nostro paese, potrebbe non essere un buon servizio al paese e nemmeno un passo coerente con il programma di Matteo Renzi, dove, lo ripetiamo, c'è scritto che si sarebbe voluto o dovuto impegnare per realizzare una infrastruttura pubblica indipendente terza, così come sono quasi tutte le infrastrutture, quella del gas, quella ferroviaria, quella elettrica, eccetera eccetera. Adesso ci spostiamo all'evento che Microsoft ha tenuto questa settimana. Hello everyone. Thank you for joining us in this amazing space in New York City. Quella che sentite è la voce di Terry Meyerson, che è il responsabile della divisione Windows and Devices di Microsoft, quindi Windows e terminali, e per terminali intendiamo telefoni, smartphone. Dunque, Terry Meyerson ha fatto da guida durante la presentazione di questa settimana, in cui sono stati presentati i nuovi prodotti Microsoft, i primi dell'era Windows 10, che dice Meyerson, è già installato su più di 110 milioni di terminali in tutto il mondo. Naturalmente parliamo soprattutto di computer, di PC. And now it's just pretty amazing that 110 million devices are now running Windows 10. Allora, che cosa ha presentato Microsoft? Prima di tutto i nuovi Lumia 950, 950 XL, che sono i primi smartphone che hanno Windows 10 come sistema operativo, e questa sicuramente è una novità. Possono essere utilizzati, pensate, come fossero un PC. Volendo si possono addirittura collegare tastiera e mouse, quindi Microsoft è la prima azienda che su tutta la gamma di prodotti, quindi PC, tablet e smartphone, ha un unico sistema operativo, e su questo è stato i tecnici, gli uomini di Microsoft hanno insistito molto. Le caratteristiche tecniche di questi telefoni, di questi smartphone, sono da top di gamma. Il 950 ha un display da 5,2 pollici, in Italia verrà venduto da novembre a 599 euro, prezzi di listino naturalmente. Il 950 XL 5,7 pollici e 699 euro. È stato presentato anche il nuovo tablet, il Surface Pro 4, ma soprattutto la notizia è questa. We made the ultimate laptop. We made Surface Book. Però dopo essere entrata direttamente nel settore smartphone comprando Nokia e di fatto producendo in proprio telefoni, smartphone, e dopo essere entrata anche nel settore dei tablet con un prodotto marchiato Microsoft, ora c'è anche un computer portatile marchiato Microsoft, si chiama Surface Book, diventa anche un tablet, è un computer molto evoluto, molto potente, sicuramente ha caratteristiche eccezionali, poi lo vedremo quando uscirà sul mercato anche in Italia. È sicuramente una notizia perché finora Microsoft si è sempre occupata del software e i PC venivano prodotti da terze parti. L'idea naturalmente è quella di fare concorrenza al MacBook, ma è un cambiamento o comunque un completamento della strategia di Microsoft, che entra direttamente nel mercato dei terminali anche con un computer. C'è un'altra notizia importante della settimana, arriva dall'americana Switch SuperNAP, che è un nascente colosso dei servizi per il cloud, ha progetti per data center piuttosto ingenti in Nevada. E poi ci sono anche, c'è anche un gruppo di investitori. Allora, hanno annunciato di aver iniziato la costruzione di un mega data center a Siziano, al confine tra Pavia e Milano. Diventerà operativo nel 2016, l'investimento totale è di 300 milioni di euro. Sarà il più grande data center in Italia, con una superficie di 42.000 metri quadri. Quindi avete capito bene, 42.000 metri quadri di data center, una potenza elettrica di 40 megawatt, che è il consumo elettrico di una media città, e sarà il più avanzato in Europa. Secondo SuperNAP, questo data center si candida a rivestire un ruolo chiave nello sviluppo dell'economia digitale nel sud Europa e nell'area del Mediterraneo. Allora, ricordiamo che SuperNAP è una società che offre, diciamo, un posto sicuro per installare server, quindi è una, non offre servizi direttamente, è un luogo dove chi eroga servizi cloud mette le proprie macchine, un po' come chi affitta un ufficio ti fornisce l'elettricità, connettività di internet, le scrivanie, ma poi tu devi mettere sulla scrivania il tuo PC, il proprio computer. Comunque la notizia è interessante e importante, si inserisce nel tentativo, chiamiamolo così al momento, di imporre l'Italia come snodo fra Europa, Asia e Africa. Ricorderete anche l'annuncio di MIX, il Milano Internet Exchange, di realizzare fra qualche mese a Palermo un data center, qui si tratta di un altro tipo di infrastruttura, comunque sempre relativa alla rete internet e ai servizi che girano su internet, un data center per intercettare il traffico che passa dalla Sicilia e che spesso va a finire nel sud della Francia. E l'idea in quel caso è: ma perché dobbiamo far continuare le fibre ottiche con tutto il traffico fino alla Francia e possiamo intercettarlo direttamente nel sud della Sicilia? Cloud significa servizi di archiviazione, potenza di calcolo usata come servizio, oppure applicazioni virtuali utilizzate via internet, insomma una lunga serie di servizi. Allora, probabilmente i servizi di archiviazione dati, lo storage, potrebbero subire un'accelerazione in Europa grazie ad una sentenza di portata storica della Corte Europea di Giustizia. Negli ultimi 15 anni un accordo denominato Safe Harbor, cioè approdo sicuro, regolava il trattamento dei dati personali fra Stati Uniti ed Europa. Notate che stiamo già utilizzando il verbo al passato, permetteva alle aziende che operano su internet, e sono circa 4.400, di raccogliere dati in Europa, archiviarli ed elaborarli negli Stati Uniti, senza incorrere in nessun problema. Ora, quell'accordo viene messo in discussione da una sentenza della Corte Europea di Giustizia emessa questa settimana e nata dall'iniziativa di un avvocato austriaco contro Facebook. Secondo questo avvocato, che si chiama Maximilian Schrems, il trasferimento dei dati dai server irlandesi di Facebook a quelli americani li mette a rischio di essere profilati anche dai servizi segreti americani. E quindi no buono, dice Schrems. I giudici del Lussemburgo hanno detto che i cittadini europei devono avere a disposizione strumenti di tutela dei dati personali che negli Stati Uniti non ci sono. Quindi questo accordo tra Unione Europea e Stati Uniti va in frantumi. E a questo punto che cosa succede? Attenzione che qua stiamo parlando di una sentenza storica che sta stravolgendo il settore. Sicuramente nelle prossime settimane ci sarà da lavorare sodo. L'Unione Europea ha già detto che lavorerà per raggiungere un nuovo accordo, ma la cosa non sarà semplice. Ne abbiamo parlato con Innocenzo Genna, esperto di regolamentazione europea nel settore internet e delle telecomunicazioni a Bruxelles. Il primo scenario, quello che dici tu, è quello ideale che tutti auspicano, cioè che ci sarà un nuovo accordo tra Stati Uniti ed Europa che si allinea con i principi dettati dalla Corte Europea. Ma non è detto che ciò avvenga, perché per allinearsi a questi principi gli Stati Uniti dovrebbero in qualche modo accettare le limitazioni previste dalla normativa europea per quanto riguarda l'utilizzo dei dati personali anche per scopi di investigazione, eccetera. E non sappiamo se l'amministrazione americana sarà disponibile a questo accordo. Lo scenario 2 è quello, diciamo, meno ideale, diciamo, quello peggiore, che in mancanza di un accordo vi saranno frequenti cause legali di autorità o di consumatori nei confronti degli operatori che esportano i dati personali negli Stati Uniti, e questo porterà appunto a questa possibile frammentazione delle attività internet. Quindi sarà più difficile per un operatore come Facebook, Google o altro di operare in Europa, e questo non è che dobbiamo esserne contenti, perché alla fine gli europei sono molto contenti di utilizzare questi servizi. Sarà anche un po' più difficile per alcune aziende europee di utilizzare sistemi globali, perché sono spesso centrati su data center che si trovano negli Stati Uniti. Dall'altro punto di vista è chiaro che si avrà un maggiore sviluppo di soluzioni tipicamente europee. Ad esempio, vi saranno più investimenti in data center in Europa piuttosto che al di fuori dell'Europa. Molto complicato. Allora, credo che aumenteranno i servizi cloud basati in Europa. Ci sono già aziende, grandi aziende americane, che hanno costruito data center in Europa anche per questo scopo, soprattutto in Germania, perché la Germania ha una regolamentazione privacy molto stringente, e quindi ci sono state aziende che hanno costruito data center in Germania proprio per questo motivo. Ci sarà maggiore business per il settore, ma anche extra costi, soprattutto per le piccole aziende, che dovranno occuparsi anche di questa ulteriore complicazione. E ci sono state anche in settimana varie interviste proprio a rappresentanti di produttori di applicazioni, di piccole aziende che lavorano su internet, che raccolgono dati, e oramai quasi tutte le aziende che lavorano su internet raccolgono dati, tant'è che spesso ci viene chiesto: accetti tutta una serie di questioni legate appunto alla raccolta dati? E uno ormai, senza pensarci troppo, accetta tutto quello che viene sottoposto. Alla fine di tutto ciò, e al di là della cronaca di questa settimana, su cui potremo tornare perché, dicevo, ci sarà da lavorare. Noi abbiamo chiesto una intervista anche all'Unione Europea, giustamente ci hanno detto, beh, dobbiamo ancora capire che cosa fare, allora rimandiamo questa chiacchierata. Ma dicevo, al di là di tutto ciò, della cronaca di questa settimana, il tema è molto importante, è un equilibrio molto delicato, quello della tutela della nostra privacy e della libertà di business e anche della capacità dei servizi segreti, di chi fa indagini, di poter accedere a dati delle persone appunto per scoprire che cosa magari queste persone stanno facendo. Molti cittadini, lo so, anch'io stesso, vivono la privacy come una scocciatura, spesso lo è, perché soprattutto l'Europa, nel tentativo di tutelare i dati personali degli utenti, obbliga ad informarci, ed è anche giusto, sui nostri diritti e a farci firmare un sacco di cose o a cliccare su accetta su un sacco di banner. Negli Stati Uniti c'è una regolamentazione diversa, potremmo dire maggiore leggerezza, e forse anche in alcuni casi una maggiore pragmaticità. Comunque l'equilibrio non è facile, è un tema di cui bisognerebbe discutere, quindi vi invito anche a documentarvi, a formare una vostra opinione, poi magari nelle prossime settimane, se siete d'accordo, comunque se non siete troppo contrari, invitiamo anche persone per cercare di chiarire di più quello che succederà. Adesso alcune notizie in breve della settimana, le nostre Digital News. Digital News. La prima notizia riguarda Google. Sapete che c'è stata una riorganizzazione dell'azienda. Alphabet è la nuova capogruppo di Google, ma attenzione, perché non può registrare il dominio Alphabet, perché appartiene ad un'altra società del gruppo BMW, quella che fa le automobili, che ha lo stesso nome e che offre servizi di noleggio a lungo termine. Quindi quelli di BMW hanno detto, scordatevi di prendere questo nome su internet. Allora, al momento il nome a dominio che è stato registrato per Alphabet, per questa nuova società, per la capogruppo di Google, è abc.xyz. Ma Google, attenzione, è molto simpatica questa notizia, ha comprato il seguente dominio, l'ha comprato da una società che l'aveva registrato nel 1999, non si sa quanto lo abbia pagato. Un pazzo ha registrato questo abcdefgh fino alla z, cioè tutte le lettere dell'alfabeto una dietro l'altra, .com. Quindi uno dice, beh, Alphabet ha un senso, abcd fino alla z, e quindi un nome a dominio molto lungo. E simpatico anche sapere che un pazzo nel 1999 aveva registrato questo dominio e per 16 anni non so che cosa se ne sia fatto, ma oggi è riuscito a venderlo a Google. Digital News. O potremmo dire a venderlo ad Alphabet, perché così si chiama la nuova capogruppo. Vabbè. Secondo i dati di AudiWeb appena pubblicati, nel mese di agosto si sono collegati ad internet in Italia circa 28 milioni di utenti nell'arco di tutto il mese. L'audience online nel giorno medio, quindi quelli che invece si collegano tutti i giorni, è invece di quasi 21 milioni di utenti. Di questi 17,4 milioni si sono collegati da smartphone o tablet e circa 10 milioni da PC. Ovviamente il totale di questi 17 più 10 è più alto dei 21 milioni del giorno medio, perché c'è chi in un giorno si connette sia da smartphone ma anche da PC, quindi viene contato due volte. Digital News. C'è chi dice che il Blu-ray sarà l'ultimo supporto fisico per il video, perché il futuro sarà solo streaming. Allora, tuttavia, un gruppo di aziende sta investendo su un lettore di dischi Ultra HD Blu-ray, cioè per il 4K. Panasonic ha presentato al CEATEC, che è una importante fiera in Giappone, una tra le più importanti fiere di tecnologia, ha presentato un dispositivo che sarà in vendita in solo Giappone a partire dal 15 novembre. Ha caratteristiche da top di gamma, quindi un'altissima qualità, però essendo anche una novità tecnologica, perché di prodotti del genere per il 4K non esistono, ma non esistono nemmeno i contenuti e nemmeno i dischi, però la macchina ce n'è. Allora, il prezzo è di quasi 3.000 euro. Non è tantissimo se ci pensate, perché uscirà fra poco più di un mese, quindi stiamo parlando di una macchina che nel giro di poco tempo scenderà drasticamente. Se avrà un minimo futuro questo supporto fisico e se non sarà tutto streaming. Digital News. Sempre durante il CEATEC, e sempre Panasonic e altre due aziende hanno annunciato la conclusione di un lungo lavoro di ricerca durato quasi 10 anni ormai, arriverà presto l'Ondroid, la prima macchina in grado di piegare i vestiti. Ci sarà un test presso alcune famiglie nel 2017, prodotto per destinato alle lavanderie nel 2018, e invece nel 2019 dovrebbe uscire quello da tenersi in casa per le famiglie. Naturalmente non si sa quanto costerà, dovrebbe però avere la lavatrice, l'asciugatrice, tutto integrato, e poi la macchina che piega tutto. Non si sa perché non è stato spiegato, detto magari alla conferenza stampa, se uno fosse stato presente lo hanno anche detto, ma io online non ho trovato nulla, non si è detto nulla se stira anche questa macchina, perché per alcune cose mica le puoi piegare senza stirarle, no? Adesso ci occupiamo di macchine automatiche, di robot. Più tardi sarà con noi anche David Orban, che sta preparando il suo appuntamento mondiale per la Network Society. L'appuntamento mondiale, il primo congresso mondiale, sarà il 15 di ottobre a Torino, ma di questo parliamo più tardi. Adesso vi faccio ascoltare un paio di interviste che abbiamo realizzato questa settimana da EMO, che è la più importante fiera al mondo per le macchine utensili per l'automazione industriale, una fiera straordinaria, bellissima. Ci sono un sacco di macchine, bisognerebbe portare anche i bambini, perché ci sono macchine veramente bellissime da vedere, che fanno pezzi, insomma, immaginate le macchine utensili, quelle che fanno proprio i pezzi base dei prodotti che poi vengono costruiti da altre macchine, quindi torni, presse, macchine per il taglio laser, anche robot, molti robot, e sempre più sofisticati, che poi costruiscono le cose che noi utilizziamo tutti i giorni. Ci sono tantissime cose che si possono dire, e sicuramente torneremo presto, magari già dalla prossima settimana, perché abbiamo una serie di interviste pronte nel cassetto da farvi ascoltare proprio sul tema dei robot. Ma questa settimana vorrei farvi ascoltare queste interviste che abbiamo realizzato appunto durante EMO. Dicevo, bisognerebbe portare i bambini, ormai è terminata questa fiera, diciamo, termina questo weekend, però i bambini, perché molti potrebbe venire voglia poi di studiare, quindi ingegneria prevalentemente, per diventare una delle tante persone che costruiscono queste macchine. E visto che buona parte anche della nostra economia, visto che siamo molto forti in questo settore, vive e prolifera proprio su queste tecnologie, beh, insomma, per dare continuità ai tecnici bisogna creare nuovi esperti. Arturo Baroncelli è il responsabile business development di Comau Robotics, una delle più grandi aziende al mondo. Questa è la chiacchierata che abbiamo fatto questa settimana nel nostro studio a Demo alla Fiera di Milano. I robot industriali, sì, loro funzionano molto bene quando si hanno diverse varianti, ma diciamo lotti. Alcune varianti, ma non infinite. Il primo robot è stato installato nel 1961. I dati pubblicati dall'International Federation of Robotics solo la scorsa settimana danno un record di 230.000 robot industriali all'anno. Quindi dal 1961 al 2015, in breve, questa è la storia. Fine anni 90 nasce un'altra branca della robotica, i cosiddetti robot di servizio. Cosa sono? Sono i robot che non vanno nell'industria, divisi in due parti, quelli personali e professionali. Qualche esempio: i robot medicali, robot che mungono, robot che salvano le persone negli incendi, eccetera eccetera. Ci sono vari sottoelementi. Uno di questi sono gli umanoidi che si vedono in televisione. Sì, probabilmente se noi guardiamo il grande panorama della robotica, i robot industriali sono quelli che sono evoluti di più, quelli più maturi, o sbaglio? Sono robot maturi che però continuano a evolvere, perché è una straordinaria sintesi di varie discipline: meccanica, software, elettronica, sensori di visione, eccetera. Ognuna di queste procede, quindi la sintesi di tutte queste dà un valore esponenziale allo sviluppo. Comau è un'azienda italiana, fa parte di Fiat Chrysler, e oltre ad essere uno dei leader mondiali della robotica, rappresentate anche la robotica italiana, che è molto evoluta, giusto? È una cosa che pochi sanno, ma è importantissima per quanto riguarda il nostro paese. Pensi che la Società Italiana di Robotica, dove sono consigliere, è nata negli anni 70, compie 40 anni, seconda solo a quella dei giapponesi. Ma ai tempi, quando è stata fondata, non c'erano prototipi o oggetti, diciamo, universitari. C'erano industrie, ingegneri, imprenditori coraggiosi che hanno portato avanti in diverse parti d'Italia, molto in Piemonte, ma non solo, lo sviluppo della robotica. Abbiamo una tradizione enorme e non temiamo rivali. Quindi ancora oggi siamo tra i leader mondiali. Assolutamente, assolutamente. Continueremo tra poco con l'ingegner Baroncelli, poi sarà con noi Flavio Marani e, come dicevo poco fa, anche David Orban. La domanda che farò tra poco all'ingegner Baroncelli di Comau è quali sono, perché questo è un altro dato molto interessante, i maggiori produttori, ma non solo produttori, ma consumatori di robot. Non è detto che sia facile la risposta. Ne parliamo tra poco. Questo è 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Ci trovate anche in podcast. Siete all'ascolto di Radio 24, tra poco. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, siete all'ascolto di Radio 24, io sono Enrico Pagliarini, mi trovate su Twitter, Facebook, potete scrivere anche all'indirizzo di posta elettronica del nostro programma, 2024@radio24.it, scritto in cifra, è 2024. Stiamo parlando di robot industriali in modo particolare, perché questa settimana abbiamo realizzato alcune interviste all'interno del nostro studio ADEMO, che è la più grande fiera mondiale per il settore delle macchine utensili e anche dei robot industriali. Abbiamo parlato con Arturo Baroncelli, che si occupa dello sviluppo del business all'interno di Comau Robotics, che è una delle più grosse aziende mondiali, un'azienda italiana, fa parte di Fiat Chrysler. Baroncelli lavora in questo settore da 30 anni, uno dei pochi italiani ad aver vinto il premio Engelberger, che è il maggior premio per la robotica al mondo. È anche presidente della International Federation of Robotics, la Federazione Internazionale della Robotica, nonché consigliere della Società Italiana di Robotica. Allora, a questo punto la domanda che ho fatto a Baroncelli è chi utilizza maggiormente i robot nel mondo, e la risposta non è per nulla scontata. Iniziamo però dai produttori. Tra i produttori abbiamo italiani, tedeschi, non siamo in tanti, svedesi, giapponesi e coreani, con la nascita dei cinesi, di alcuni produttori cinesi, e questa è la risposta alla prima domanda. Gli americani c'erano, ma hanno perso questo predominio nei primi anni della storia. Seconda cosa, chi è il maggiore consumatore di robot al mondo? Numeri. Ho detto prima che il mercato mondiale sono 230.000 robot. Ogni anno. Quindi non è la base installata, è quelli che vengono... La base installata è circa 2 milioni. Sì. Alcuni sono stati tolti, circa 2 milioni. Allora, dirò chi è il secondo, è il Giappone, il terzo è la Corea, il quarto gli Stati Uniti e il quinto la Germania. Noi siamo sesti. Quindi sesti, siamo. Come adozione, come utilizzo. Come consumo. Quanti robot vengono consumati nella nazione? Perfetto. Chi è il primo? Pochi lo sanno, la Cina. Ma di gran lunga la Cina. Su 230.000, 56.000 sono cinesi, il trend è ancora in crescita. Che è un paradosso da un certo punto di vista, un paese che ha ancora oggi, poi è vero che sta crescendo, un costo della manodopera basso, sta utilizzando sempre più robot nelle proprie fabbriche. È un paradosso per chi non conosce i robot, non lo è per chi, come me, è da tanti anni nel mestiere. Perché? Perché il robot non è un mezzo per fare certi mestieri, è il mezzo per fare certi mestieri. Sì. Per fare una scocca automobilistica si usa il robot, per grandi segmenti dell'elettronica si usa il robot. Il robot è il mezzo. Quindi lo sviluppo industriale passa di lì. Assolutamente. Non. Senta, lei ha 30 anni di esperienza in questo settore. Che cosa sta succedendo a livello di cambiamento tecnologico in questi ultimi anni? Stiamo parlando di un'evoluzione tutto sommato incrementale senza grosse discontinuità, o sta succedendo qualche cosa? Perché se noi guardiamo altri settori della robotica, o comunque dell'automazione industriale o non solo industriale, la crescita del software di intelligenza artificiale sta cominciando a cambiare molto, e c'è chi dice che nei prossimi anni cambieranno tantissime cose. Ecco, tra i robot industriali? Ci sono sia sviluppi incrementali, perché ho detto che il robot è la sintesi di diverse discipline, ciascuna delle quali progredisce. Seconda cosa, c'è un circolo virtuoso nella robotica: più robot circolano, più il know-how si diffonde, più ogni giorno vengono inventate nuove soluzioni. Sì. Queste sono quelle incrementali. Ce n'è una poi, come si dice, un cambio di paradigma, di breakthrough, ci sono diverse maniere di esprimerlo, che è questo, che c'è stato anche in connessione col rapporto con l'altra branca dei robot, quella di servizio. Un tipico robot industriale, se lo vedete nei filmati, è noi diciamo nelle gabbie, ovvero in ripari che impediscono il contatto con l'uomo. Negli ultimi 2-3 anni si è assistiti alla nascita di robot che chiamiamo collaborativi, che sotto certe condizioni possono lavorare senza queste gabbie. Quindi diciamo che aiutano l'uomo, di fatto. Robot fuori dalle gabbie. Loro fanno il loro mestiere, però vicino agli uomini, entro certe condizioni. Sono robot ancora piccoli, in certi segmenti, però questo è un trend che è fecondo, perché a mio avviso la soluzione migliore è lasciare al robot i compiti da robot, quindi compiti magari pericolosi, ripetitivi, noiosi, molto molto precisi, e agli uomini i compiti dove c'è destrezza, c'è la cura, aspetti estetici, eccetera eccetera. Io vedo collaborazione, direi che è la parola giusta. Quindi lei, di fronte a quelli che temono una invasione di robot in molti mestieri che ancora oggi sono affidati all'uomo, anche in settori impensabili dove uno non può pensare che una macchina possa fare qualcosa che oggi fa un uomo, lei non teme questo? Ma io non temo, perché questa, che in teoria lei dovrebbe essere un grande tifoso dei robot. Ma sì, ovviamente professionalmente sì, ma io vedo un circolo virtuoso, come dicevo prima, per cui si inventano le nuove cose. Poi di nuovo, il robot fa cose che gli esseri umani non fanno. Tante volte mi viene fatta questa domanda: i robot e gli uomini. Io sfido l'uomo più forte del mondo a spostare 500 kg da un punto all'altro, distante, certo, 7 metri. Certo, questo è comprensibile, sì. Diciamo. Però c'è chi dice che sì, grazie all'intelligenza artificiale, grazie alla tecnologia che evolverà, e quindi con robot che, certo, saranno capaci di fare anche meccanicamente molte più cose, gli uomini verranno sostituiti. Ma io credo di no. Parlavo in Germania con un imprenditore americano a cui hanno fatto questa domanda. Ha detto: sì sì, io ho fatto la linea robotizzata negli Stati Uniti, se non l'avessi fatta non ci sarebbero stati gli ingegneri a progettare il prodotto, non ci sarebbero stati i commerciali a vendere il prodotto, non ci sarebbero stati quelli del nostro indotto. Quindi, a fronte di una linea di produzione automatizzata che ottimizza costi e produttività, io ho fatto l'azienda con tutto quello che ci sta intorno. Senza di quello non ci sarebbe l'azienda. Sì. Allora, naturalmente questo è un dibattito mondiale molto ampio. Ci sono quelli invece che ritengono che grazie all'intelligenza artificiale nei prossimi anni l'accelerazione della tecnologia applicata ai robot ci offrirà delle sorprese così incredibili, per cui molte cose cominceranno a farle i robot invece che gli uomini, anche in settori dove appunto c'è creatività. Ci sono vari settori già oggi dove succedono cose impensabili. Ad esempio, alcune società negli Stati Uniti, non stiamo parlando di robot meccanici, parliamo di software, ma tanto per far capire quanto l'intelligenza artificiale ha fatto passi in avanti, ci sono sistemi di intelligenza artificiale che scrivono le notizie. problema per i giornalisti. Naturalmente scrivono notizie molto semplici. Quando escono i dati di bilancio, questi prendono alcuni dati, li mettono insieme e sparano fuori le notizie relative al bilancio di un'azienda. Naturalmente è molto più complicato scrivere un pezzo di cronaca su un omicidio. Però i sistemi di intelligenza artificiale stanno facendo passi in avanti, quindi unendo il software con l'hardware potremo vedere cose molto interessanti. C'è un ampio dibattito anche sulle conseguenze di tutto ciò. Ne torneremo a parlare la prossima settimana, perché come dicevo abbiamo alcune interviste proprio su questo tema. Ci sono anche scienziati e abbiamo appunto un'intervista anche su questo tema, che hanno fatto degli appelli agli stati, alle nazioni, per cercare di pensare alle conseguenze dell'uso dell'intelligenza artificiale, almeno in alcuni ambiti. Pensate ad esempio a quello degli armamenti. Torniamo ai nostri robot e alle nostre macchine industriali. Abbiamo parlato anche con l'ingegnere Flavio Marani, che responsabile vendite a TS Robot, che è la filiale italiana di Kawasaki Robotics. Kawasaki giapponese, il numero uno al mondo nel settore di robot industriali. Quello che è cambiato negli ultimi anni è stata la sensorializzazione del robot, cioè l'aggiunta di sensori ottici, sensori tattili, che lo rendono più flessibile e in molte applicazioni che finora erano esclusiva dell'operatore, quindi tipicamente manuali. Sto parlando di sistemi di visione, quindi di telecamere collegate a computer che memorizzano delle immagini, le analizzano e riescono a capire dov'è il pezzo da prelevare, quali sono le caratteristiche, la tipologia del pezzo, il colore ed eventuali difettosità. Sistemi di visione bidimensionali, adesso ci sono anche dei sistemi di visione tridimensionali che percepiscono anche la terza dimensione avvalendosi di scanner laser. La potenza di calcolo delle CPU, quindi dei cuori tecnologici dei robot, è cresciuta ovviamente, e questo è stato dovuto alla crescita dell'elettronica in generale consumer, perché i processori poi impiegati sono i medesimi, e quindi la capacità di calcolo di questi robot e di questi computer ad essi collegati è cresciuta. Non solo questo, però, è diventata più economica nel tempo. Quindi se certe tecnologie erano disponibili 20 anni fa ma avevano un costo proibitivo e potevano essere impiegate solo in settore difesa o in applicazioni particolari, oggi sono alla portata della piccola media industria, quindi una presa, come vediamo qui in fiera presso la nostra applicazione, una presa di pezzi alla rinfusa da cassone in tridimensionale, oggi è possibile, viene realizzata con affidabilità e velocità grazie a queste nuove tecnologie. E non solo è possibile, ma è possibile con un costo contenuto. Costo contenuto, questa... stiamo parlando di decine di migliaia di euro, sì. Migliaia di euro, centinaia. Si va da migliaia, per quello che riguarda il sistema di visione, da migliaia di euro al più 20-30 mila euro. Ecco, quindi... Quando dice sistema che preleva un pezzo alla rinfusa, cioè diversi pezzi, e lui capisce, riesce a riconoscere diversi pezzi. Pezzi, tipicamente è la stessa tipologia di pezzo orientata arbitrariamente in un cassone. Quindi, sì, in modo diverso. E certo. L'intelligenza di questi sistemi oggi è quella di riuscire a riconoscere il pezzo dato il disegno tridimensionale del pezzo. Sì. Fino a un po' di tempo fa c'era una acquisizione della tipologia del pezzo fatta dalle telecamere. Oggi il computer, chiamiamolo il cervello del robot, riesce a identificare il pezzo in base al disegno tridimensionale, come un progettista meccanico. Sì. Senta, altri tipi di sensori che stanno... Sì, sono sensori di forza, sì. Forza e momenti. Quindi il robot, quando va a depositare o a cercare, riesce ad avere una sensibilità tattile. Quindi è più delicato e anche più preciso. Sì, può andare a trovare il pezzo cercandolo, tastandolo, se è cieco, come un cieco, come però un umano, se sì, dall'altra parte ha il sistema di visione, quindi quest'altra tecnologia può da un lato vedere, dall'altro nell'inserimento. Sì, sì. Immagino che questi sensori poi servano anche per fare tutta un'analisi di... dei dati e di quello che accade in un'azienda. Noi parliamo spesso di internet degli oggetti, di sensors data, quindi i dati che arrivano dai sensori sono tutte cose collegate, poi questi dati in grande quantità vengono elaborati e si arriva alla famosa business analytics, sì, business intelligence, eccetera eccetera, quindi sono, sì, tutte, diciamo, cose collegate. Diciamo che il robot è collegato alla sensoristica così come l'uomo ha gli occhi, ha il tatto e così via, quindi la sensoristica è connessa al robot, tipicamente in Ethernet, ma c'è una connessione diretta, quindi qualsiasi robot è interrogabile da ovunque nel mondo e risponde con un proprio linguaggio. Senta, se guardiamo all'Italia, livello di adozione dei robot nelle aziende? Direi che è molto buono, perché sono già 20 anni o più che le aziende installano robot. All'inizio erano le grosse aziende manifatturiere nel settore dell'automotive, dell'automobilistico, sì, poi via via l'indotto automotive, poi via via il settore meccanico. Oggi però il robot è andato fuori addirittura dalle aziende, perché lo troviamo nelle farmacie, nei laboratori di analisi. E quindi va nelle in farmacie altre, cosa fanno? Nelle farmacie, dietro il bancone, va a prelevare le scatole di medicine aprendo i cassetti e le mette su uno scivolino che arriva al farmacista. Ah, ed in è molte, diffusa questa cosa? Molto diffusa. Quando andate in farmacia, noi vedete, non lo sappiamo, vedete che i farmaci cadono da qualche parte e può essere al piano interrato, può essere su un soppalco, può essere dietro una parete. C'è un robot che può essere cartesiano, antropomorfo, ma c'è un robot che va a prelevare i farmaci e li dà al farmacista. Beh, dice, non lo vedete il robot, lei ma dice, c'è. Parla di robot cartesiano come che tutti come che noi sapessimo cartesiano che cos'è. È un robot che si muove secondo gli assi cartesiani, una tipologia più semplice. Sì, sì, invece è una macchina più semplice, ma sempre un manipolatore. Il robot antropomorfo invece ha 6 motori, è molto snodato. E quindi in Italia ci sono poche aziende che potrebbero installare robot per essere più competitive, ormai siamo arrivate ad una saturazione? No, molte aziende, ancora molte aziende, perché c'è grandissimo spazio per l'automazione robotica, sì, tutt'oggi, anche perché molte applicazioni sono rimaste bloccate perché non c'era la sensorialità. Ah, okay. Oggi con la sensorialità si sbloccano molto, in particolare, come vedremo domani, nel settore alimentare. E il settore alimentare aveva una preclusione nell'uso dei robot proprio perché questi necessitavano di visione, di poter prendere dei pezzi in alta velocità guardandoli. Ad esempio abbiamo applicazioni di taglio tramezzini, applicazioni dove facciamo delle lasagne, dove facciamo dei cioccolatini, dove... Il robot fa la lasagna? Sì, facciamo delle lasagne con 5 robot ragnetti, sistemi di visione, e tra una sfoglia e l'altra ci sono dei farcitori, sistemi installati in Italia, in Austria e così via. Quindi sono già macchine che... Impianti installati, sì, molte delle lasagne, ad esempio quasi tutti i tramezzini che prendete sono tagliati da robot che li tagliano con una lama ultrasuoni mentre scorrono sul nastro, guardandoli con un sistema di visione e modulando la potenza degli ultrasuoni durante il taglio, facendo la seghettatura, se c'è lo specchio o meno, con un'intelligenza adattativa. Senta, i robot diventano sempre più bravi, sono sempre più intelligenti, vedono, hanno il tatto, eccetera, quindi rubano il lavoro agli operai. Diciamo che la mia esperienza specifica, questo è chiaramente un problema etico che mi sono sempre posto, giustamente, la mia esperienza specifica è che laddove sono entrati i robot non sono usciti gli operai. Può sembrare strano, però l'imprenditore italiano si avvale di automazione, che può essere standard oppure robotica, per essere più efficiente, per poter vincere delle commesse contro dei concorrenti stranieri che lavorano nei paesi dell'est oppure in Cina, che hanno un costo della manodopera più basso. Impiegando automazione robotica o automazione in generale, l'azienda italiana è più efficiente, quindi riesce a salvare se stessa rispetto a una concorrenza internazionale. Quindi lei dice, se usi i robot sopravvivi, altrimenti se no, no. Cioè, in verità le aziende che hanno chiuso... Ma lei lo dice perché li vende i robot. Per esperienza, perché aziende che si sono riconvertite impiegando automazione, robotica, hanno salvato il lavoro ai propri dipendenti, perché il titolare era illuminato e ci teneva alla continuità aziendale, ha investito nell'azienda, invece che molto più semplicemente andando a produrre in altri posti, e in questo modo, tenendo i propri dipendenti, ha salvato il loro posto. Quindi invece, lei dice, anche un modo per riportare la produzione? Sì, non so. Così è stato fatto, ci sono degli esempi abbastanza luminosi nel Bresciano, per esempio, di aziende che fanno coltellerie e posateria, che hanno 40 robot installati o più, e che riescono a vincere commesse contro i cinesi. chiaramente con un mix di manodopera, automazione robotica, ma che hanno superato la prima onda d'urto delle aziende cinesi. Adesso dobbiamo considerare che la Cina oggi è il più grande mercato della robotica, sì. E quindi che dobbiamo tener presente tutti questi aspetti e che non c'è possibilità di errore per un imprenditore italiano. Una volta era molto più facile fare gli imprenditori, oggi sì. No, oggi se sbagli due volte o tre hai chiuso. Senta, questa... non so se chiamarla rivoluzione, questa evoluzione verso i robot collaborativi. Sì. Che cosa, come si esprimerà? Perché stiamo parlando di una cosa che sta iniziando in questi anni. Sì, giusto? Questa parola è un po' nuova per tanti. Cos'è un robot collaborativo? È un robot tipicamente di bassa portata, cioè in parole povere che porta pochi chili, che può lavorare assieme all'uomo senza essere recintato, senza cancelli, senza gabbia per intenderci. Questo faciliterà enormemente la diffusione dei robot perché diventa un oggetto flessibile, quasi come un aspirapolvere, quando serve si mette, poi si mette a magazzino e si rimette. Quindi la diffusione della robotica aumenterà notevolissimamente. Logicamente stiamo parlando di robot di bassa portata, di robot diciamo quasi da tavolo, che lavoreranno fianco a fianco con gli operatori. Ma questa sarà una rivoluzione industriale con la quale ci troveremo a fare i conti nei prossimi anni. Per fare cosa? Cioè per aiutare gli operai? Per... Oggi come oggi sono impiegati in Volkswagen e in altre aziende per aiutare, collaborare con gli operai. Certo è che autonomamente possono svolgere dei lavori di montaggio, di assemblaggio senza necessità di recinzioni a fianco agli operai, così come oggi sono impiegati nel mondo. Senta. E oltretutto con sensorialità, cioè questi robot collaborativi hanno vista, hanno tatto e quindi lavoreranno a fianco agli operatori con delle capacità sensoriali. Lei ci ha fatto l'esempio della farmacia. Sì. Ci sono altri settori dove i robot sono usciti o stanno uscendo dalle fabbriche o addirittura entrano nelle case? Io in casa mica vedo tanti... Ma certo, l'aspirapolvere è un piccolo robot. Chiamano robot, sono dei frullatore piccoli robot. Un frullatore, robot. Magari un motore, però adesso tutti questi sistemi aspirapolvere che vanno in giro da soli con la mappatura, certo. Hanno dell'intelligenza e hanno anche una forte diffusione. Sì. I robot oggi come oggi, al di là delle farmacie, sono in tanti ospedali a fare le analisi automatiche in batteriologia. Chiaramente molti degli impieghi dei robot sono anche per salvaguardare la salute degli operatori, ma anche per garantire un determinismo nell'analisi medica, nell'analisi clinica, quindi ospedali, manipolano le fialette, sì, ad esempio prelevano le piastre di Petri, che sono i terreni di coltura, poi con un altro organo di presa prelevano la provetta, intingono un'asta nella provetta e seminano il sangue o altri fluidi sulla piastra di Petri con determinismo, con una quantità nota secondo un percorso noto. Dopodiché queste piastre vengono a essere incubate con anche qui altri robot, vengono a essere scannerizzate, il microbiologo va a vedere l'immagine scannerizzata ed eventualmente comanda di nuovo questi robot per fare una successiva coltura, quindi coltura, un prelievo. Quasi tutti i grossi centri pubblici ospedalieri italiani oggi hanno dei laboratori robotici di microbiologia e l'azienda che installa gli impianti in tutto il mondo è italiana. Quindi noi in Italia abbiamo delle eccellenze tecnologiche che ci vengono riconosciute in tutto il mondo. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, la voce che avete ascoltato era quella dell'ingegner Flavio Marani, anche lui fa parte della società italiana di robotica Siri e è responsabile vendite per TS Robot, che è la filiale italiana di Kawasaki Robotics giapponese. Queste interviste che avete ascoltato sono state realizzate questa settimana nel nostro studio a EMO Milano, la più importante fiera al mondo delle macchine utensili, macchine industriali, automazione industriale. Naturalmente i robot fanno parte di questa grande famiglia. Dunque, che cosa c'entra tutto ciò, anche il nuovo modo di produrre, con la trasformazione che riguarda la società che viene definita, che è stata definita Network Society, una società che la rete rappresenta molto bene? David Orban ha fondato The Network Society. La prossima settimana sul nuovo grattacielo di Intesa San Paolo a Torino, il 15 di ottobre, ci sarà il primo congresso mondiale. David, bentornato a 2024. Grazie Enrico. Allora, che cosa c'entra questa trasformazione con il modo di produrre, con la manifattura? Le nostre civiltà, la società tecnologica da migliaia di anni a questa parte, hanno visto ondate di rivoluzioni, dai tempi degli Egizi al Medioevo, alla rivoluzione industriale e adesso la rivoluzione informatica. E la nostra tesi fondamentale è che effettivamente la forma della società stessa sia data dalle tecnologie che abbiamo a disposizione. Quando l'energia muscolare era l'unica che potevamo usare, necessariamente avevamo gli schiavi. Ma quando era possibile costruire una industria efficiente, per esempio durante la guerra civile americana, chi voleva tenere gli schiavi non poteva, non era in grado di farlo e veniva inesorabilmente battuto dagli eserciti del nord, che erano economicamente ed organizzativamente superiori. Oggi siamo di fronte ad un cambiamento, una trasformazione di fase simile che, secondo l'organizzazione della Network Society, punta verso la decentralizzazione e la distribuzione delle attività socio-economiche, incluse quelle della manifattura. Questo che cosa significa? Che nei prossimi anni vedremo un tipo di produzione decentralizzato, quindi le fabbriche alle quali siamo abituati, che sono grandi fabbriche che invece centralizzano la produzione in un unico grande posto, sempre più grande, sempre più immenso. Insomma, ci sarà un cambiamento radicale da questo punto di vista, secondo la vostra tesi? È molto probabile che tante di queste fabbriche rimarranno. In effetti il nuovo spesso non è che sostituisce completamente il vecchio, ma costruisce sopra. E il vecchio diventa una infrastruttura di base che prendiamo per scontata, ma le cose più interessanti, avvincenti e le nuove possibilità vengono realizzate sul livello appena reso possibile dall'avanzamento tecnologico. Nel caso della manifattura, l'esempio più concreto di questo è rappresentato dalle stampanti 3D, che sono diventate popolari negli ultimi anni, anche se venivano già utilizzati per la prototipazione industriale. Oggi, in ambito industriale, quasi metà dei pezzi prodotti con le tecnologie di stampa 3D non sono prototipi, ma vanno direttamente all'interno di un pezzo che va sul mercato, che va in produzione, come può essere, per esempio, il motore a getto di un aereo, quindi pezzi anche di importanza vitale. Ma l'elemento, a mio avviso, importante di questo nuovo modo di produrre, appunto con le stampanti 3D, è che, contrariamente a quello che succede con un impianto di produzione tradizionale, dove la complessità di quello che si realizza attraverso, per esempio, una catena di montaggio è direttamente proporzionale ai capitali impiegati, una stampante 3D non fa differenza se stampa un pezzo semplice e di poco valore rispetto ad un pezzo di enorme complessità e di grande valore. E questo rompe completamente gli assunti proprio di investimenti e di economia su cui abbiamo basato negli ultimi 200 anni le considerazioni di crescita. E le stampanti 3D saranno disponibili a tutti, assieme agli altri mezzi della moderna produzione industriale, e così come già avviene all'interno dei Fab Lab, degli spazi di hacker e addirittura in catene nuove di produzione, come può essere per esempio Tech Shop, che si sta diffondendo tantissimo negli Stati Uniti e che porta a vantaggio di tutti l'accesso a questi nuovi modelli di produzione. Quindi non questa rivoluzione, questo cambiamento non esclude che rimangano le grandi fabbriche e magari saranno popolate da un numero maggiore di robot rispetto a quelle di oggi, robot più intelligenti. L'automazione è assolutamente inevitabile e desiderabile. Oggi addirittura in Cina i costi delle persone stanno aumentando e le nuove fabbriche stanno pianificando di utilizzare dei robot sempre più flessibili. Però le persone che sono in grado di comandare i robot sono non solo necessarie, ma ancora più preziose di prima. O le persone che sono in grado di elevarsi e vedere i sistemi da un punto di vista più lontano e quindi più inclusivo, dove i miglioramenti di logistica o i miglioramenti di comunicazione tra clienti e fornitori di diversi pezzi che devono essere assemblati fanno enormemente la differenza. Abbiamo visto per esempio dei filmati online quasi miracolosi di alberghi di 30 piani assemblati da ditte cinesi in poche settimane. Quelle non sono solo rivoluzioni di modalità di produzione, ma anche rivoluzioni di logistica. E allora, adottando questi sistemi, incrociando le rivoluzioni di stampa 3D con internet degli oggetti, siamo in grado di assemblare qualcosa di genuinamente nuovo. Pensi che vedremo prima questa rivoluzione della produzione distribuita grazie alla stampa 3D, o ad esempio un'altra delle grandi cose che potrebbero accadere nei prossimi anni e che alcuni ritengono sia molto vicina, cioè ad esempio l'utilizzo di automobili a guida autonoma o automatica? Ci sono fenomeni che avvengono in effetti simultaneamente. Internet degli oggetti è basato sul miglioramento dei sensori che abbiamo a disposizione, e le macchine a guida automatica hanno bisogno dei propri occhi per guardarsi in giro, hanno bisogno di comunicare con mappe ad altissima risoluzione che vengono aggiornate costantemente, e quindi uno dei cambiamenti dipende dall'altro e viceversa. Io ritengo che le macchine robotiche oggi siano di fatto pronte. In California quelle di Google hanno percorso quasi 2 milioni di chilometri nell'arco degli ultimi 2 anni. È una cosa deliziosa che ho imparato pochi giorni fa, e che ritornando in garage la sera, quando non si muovono, non smettono di imparare, perché ogni notte percorrono in simulazione quasi 5 milioni di chilometri, decidendo di volta in volta cosa fare ed imparando a fare meglio quello che è il loro compito il giorno dopo. E queste macchine hanno avuto una dozzina di incidenti, tutte causate da guidatori umani terzi, e siccome abbiamo più di 1 milione di morti sulle strade, queste saranno evitate con le macchine robotiche. La questione non è se arriveranno, ma quando e che arrivino al più presto, perché giorno dopo giorno persone muoiono che non dovrebbero morire. 50 milioni di persone sono ferite in incidenti stradali, spesso con lesioni permanenti, rimanendo paralizzate. E da un punto di vista politico, la domanda molto presto sarà proprio: tu che vuoi farti eleggere, come puoi permettere che le persone continuino a morire? E allora, posto in questo modo, penso che ogni politico dovrebbe sbrigarsi perché questa rivoluzione arrivi al più presto. Davide, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, a presto e in bocca al lupo per la prossima settimana per il vostro primo congresso mondiale a Torino, 15 ottobre. Grazie Enrico. Spegniamo le luci anche per questa settimana, chiudiamo i microfoni, spegniamo tutte le nostre macchine, i nostri computer che ci aiutano nella produzione di 2024 ogni settimana. Io sono Enrico Pagliarini, grazie come sempre per la vostra attenzione. Quella che avete ascoltato è la versione podcast del nostro programma, quindi grazie per aver scaricato il file MP3 oppure ascoltato in streaming. dai nostri sistemi attraverso applicazioni varie. Ormai ci sono miriadi di applicazioni che permettono di gestire il podcast e ascoltare programmi. Bene, scrivetemi al nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Torniamo la prossima settimana con una nuova puntata. Probabilmente riparleremo un pochettino di robot. Queste molte delle domande che ho fatto creano molto dibattito, un dibattito nel medio-lungo periodo, però se parliamo soprattutto delle auto a guida autonoma, beh, stiamo parlando di qualcosa che sta veramente arrivando. Pensate, adesso non l'ho messa nelle Digital News questa settimana, ma la Toyota ha annunciato che un veicolo che guida in autonomia verrà lanciato in Giappone nel 2020. E se pensiamo che ormai stappiamo le bottiglie per entrare nel 2016, 4 anni sono molto pochi, Bene, appuntamento alla prossima settimana, sempre con 2024. 2024. 31 seconds and we're going for auto sequence start.